fai oro sei più o meno 5%, capito? Perché è più precisa, mentre l'argento, hanno avuto la striscia d'argento alla fine, praticamente i primi tre servono per il colore, capito? Poi i primi tre giri sono i colori che ti danno il valore della resistenza, mentre il quarto ti dà la precisione, diciamo, della resistenza, va. Capito, poi alla fine la resistenza, diciamo, quando il momento in cui la smonti, la giri in un verso o nell'altro, non cambia nulla? No, non cambia niente, non ha nessuna importanza, è una resistenza, serve per, come dice la parola, resistenza, quindi quando passa la corrente, diciamo, una parte della corrente, si ricorda, abbassa di come trattengono, cioè gli fa la resistenza e quindi fa passare un valore più basso. Per si impara sempre. No, eppure vabbè, comunque scalda, non credo, può essere che sia normale, non lo so, ma comunque adesso lo sto usando in questo momento, se la stessa uscendo abbastanza bene, tutto lì, me l'ho cambiata proprio perché era nevita abbastanza e sta facendo questa prova, niente di particolare, però scalda. Penso, spero che sia normale, finché va. Ho capito, lei tira sto controllo, se dovesse rompersi, se anche lì, allora il problema è capire perché spalla la resistenza così tanto, però finché guarda, va bene, aspetta, c'è una parte che si lava la portalità, ci sentiamo alle prossime, va? Io ti ringrazio per il controllo. Hello. Attenzione Barracuda! E avanti! Io sono! Dimmi mondo, dimmi tutto! Ah! A me ascolti! Io da Santiago 7, Radio 4! Già basta, dai! Ma nessuno è entrato! Io sono attaccato adesso perché stavo chiamando questo apparecchietto e basta, no, non ho sentito nessun altro, la verità. Kappa, dai. Io mi c'avevo sempre acceso questo apparecchietto e stavo ascoltando e non potevo parlare, adesso posso. Scusate un attimo, sento, noi siamo Antonello. C'è Gianni da Ciaruti che sta chiamando, forse non lo sentite. Giulio. Ciao. C'è Gianni da Ciaruti che sta chiamando, forse non lo sentite. E io lo sento appena appena. Santiago 2, radio 1,5 da parte mia. Santiago 6, qua radio 5. Sassa, io non l'hai conosciuto, Giulio sono. Avessi sempre voce. Ma non è lui però. Buonasera a tutti, vi sto ascoltando. Ciao, auguroni di buon Natale. Ancora a te non ti ho dato. Grazie altrettanto anche a te. Ho capito che è di San Giovanni, così è. Poi ho capito chi sia. Ma forse è Barracuda, come si chiama? Quando mi lavoravo il trattore, chi sei trattore, sei tu? Ah, è Sorgio, non si intendi. Ciao qua. Ciao Giuccia, non sto ascoltando, sono entrato perché non è lui, capito? Non arriva qua a casa mia e quindi mi sono accorto che non era lui. Ho capito, no, la stessa voce mi sembra d'accordo. No, anche perché mi lavoravo insieme a Antonio, ho capito. Ma e allora praticamente era sotto, però nel momento che mollava la portante non guardava, perché subito riprendeva l'O2 e Antonio, allora per quello che non ho capito molto bene chi era, ma come se fosse cosa, Barracuda sei tu? Attento Barracuda, ma non risponde, vabbè, pazienza. Allora, Antonio, cosa che ti è successo con questa resistenza? Niente, auguroni anche a te. Niente, ho aperto così per caso ieri, per vedere un po' come l'ha fatto la pelle che mi trovo questa resistenza. E già leggermente ozionata, e prima di smontare e cambiarla ci ho messo il dito sopra, ho provato a modulare, scaldava questa resistenza, mi metto il dito e abbastanza calda. Ne ho rimesso un'altra, dello stesso valore, anche questa, quando sei in modulazione gli metti il dito sopra, mica quanto brucia però. Vuol dire che sto prendendo il vantaggio, per vedere se qualcosa che la fa scaldare troppo. Però adesso sentiva, se quella è piccolissima vuol dire che ho 4 watt, poi va a metterla da 9 watt oppure addirittura 1 watt e poi vedi un po' se scalda ancora, vuol dire che c'è un problema prima della resistenza. No, ma adesso io in questo momento sto usando la 44 e aspetta un attimo e aspetta, porca miseria, la 44 esce con 3 watt, mi sei indicato 3 watt così, attacco questo impianto di roba e sto scendo con 12 watt, alla fine poi l'apparato è 3 watt, dunque dovrebbe andare bene, dovrebbero uscire, entrare in massimo 5 watt, ecco. Sì, vabbè, ma cosa c'entra tutto questo con la resistenza? Adesso ti volevo spiegare che ci sono alcuni piccoli lineari che hanno bisogno, che funzionano con 5 watt, no, devi farli entrare con massimo 5 watt, invece secondo quelli che hai per dire il Galaxy ne esce con 10 e già non, diciamo, sei pure portata per il linearetto, capito? Dunque in proporzione gli sto dando dei watt giusti per il suo funzionamento, capito? Né più né meno, se un'entrata massima di 5 watt la 44 va, la 44 si a 3, dunque non dovrebbe funzionare egregiamente, ma durante la modulazione questo interferò, ma ti giuro che non fa neanche mettere il dito sopra. Ma aspetta, stai facendo una confusione, non c'entra niente, assolutamente. Se scalda la resistenza non c'entra niente, questo non significa che ti va più watt il lineare o il baracchino, non c'entra niente, io sto parlando non di una resistenza, in un circuito, se scalda troppo, o è troppo bassa il wattaggio, perché le resistenze, sappi, che hanno un wattaggio, partono da un quarto di watt e finiscono anche a 10 watt e oltre anche. Capito? Perché se tu ci hai messo, anche se è dello stesso valore unico, una resistenza, però che è bassa di wattaggio, ecco il motivo per cui scalda troppo può essere quello, prova a sostituirla con una più rossa, dello stesso colore, come hai detto tu, dello stesso uomo praticamente, però più grosso, con le dimensioni, essendo più rossa di dimensione più watt, capito? Se scalda ancora vuol dire che c'è un problema nel circuito, non c'è niente il discorso che stai facendo tu. No, io diciamo, forse che mi servono delle persone ignoranti in materia, ma cioè quello che ho sentito durante le modulazioni sono dei lineari che hanno un'entrata massima per dire 5 watt, prendo per esempio per dire 747 che supporta sino a 10 watt, da 0 per dire da 1 a 10, questo che ho detto, questa piccolissima roba che ho, ha bisogno di un'entrata massima di 5 watt, ecco tutto lì. Siccome io lo sto alimentando con un alimentatore a 10 ampere, e forse che sia l'alimentatore che sia troppo basso per questo. Sì, io ho capito cosa vuoi dire tu, ma tu non hai capito cosa intendo dire io. In un qualsiasi circuito, lascia perdere il discorso alimentatore lineare o baracchino, non c'entra niente. Io sto parlando di una resistenza montata in un qualsiasi circuito elettrico. Mi stai seguendo, signore, questo momento? Sì, signore, continua. Oh, allora, se questa resistenza montata in un circuito elettrico e scalda troppo, significa che la resistenza, a parte il discorso valore unico che deve essere quello del massa, ci può essere sì una percentuale in più, una percentuale in meno che potrebbe anche funzionare lo stesso, ma se è di wattaggio, cioè potenza in poche parole, di componente, scalda, allora tu devi sostituire sempre con lo stesso valore unico, ma con un wattaggio superiore. Se ad esempio hai montato una da un quarto di watt, prova a mettere una da mezzo watt, capito? Cosa ti voglio dire? Poi non c'è niente tutto il discorso che hai fatto tu. Io sto parlando di un circuito elettronico. Se continua a scaldare, quando va messa più forte di watt, allora vuol dire che c'è un problema nel circuito, capito? Capito, perfetto. Adesso guardi, in questo momento lo sto usando e penso che la modulazione non dia nessun problema. Dunque, per come mi stai parlando tu, dovrei prendere una resistenza degli stessi colori, arancio, grigio, nero e oro, però leggermente più grossa, giusto? Se ho capito male. No, mi sente. Un attimo, sì che ti sento. Sì, più grossa, perché ti spiego, così in parole molto ma molto chiare. La resistenza più grossa è più vantaggio ha, a parità di valore ohmico. Poi adesso sta il discorso oro, non c'entra niente, non si legge mai quello. Quindi sono una percentuale di valore che può, tanto per fare un esempio, una resistenza a 100 ohm può essere 105 come può essere 95 ohm. L'ultima lineetta, quella che può essere grigia, argentata, là, oppure oro, quella è quella che ti dà la percentuale, in più o in meno del valore ohmico. Non c'entra niente. Chi si legge sono le prime tre, capito? Le prime tre. Del valore, ma poi l'ultima, quella colorata o argento, non si legge proprio, quello non c'entra niente. Capito, dunque alla fin fine, correggimi se sbaglio, non trovandone, come stai dicendo tu, più grossa, se ne possono due, se ne possono aggiungere due parallelo? Sì, sì, sì, e aumenta il valore unico, certo. C'è dentro, dimmi. Fate un controllo per vedere come esco, che non l'ho mai provato con questo apparecchio. Allora, io ti sento fortissimo il segnale, però il radio non è chiarissimo, è un po' nasina, forse nauca, forse è troppo compresa. Quanto è il segnale? Il segnale è quello più 15, abbondante anche, però la radio è un po' sporca, ecco, non è una solita radiatura bella pulita chiara. Ma è Ossi come arrivo? Questo è un Santiago Love, Santiago Love è una radio di 4, non è bella pimpante, diciamo, dai, però è abbastanza comprensibile. Ancora già va bene, stavo provando, era un po' il tempo fermo, che ci è stato, esce. E qua. Volevo chiedere una cosa a Claudio. In quell'incrisi forse non so se c'è ancora Claudio, ci sei? Ha chiuso. Ascolta, guarda adesso, cambia qualcosa, adesso gli ho messo tutti e due sopra, la modulazione è sempre la stessa. Avanti il brecco. Non ho chiuso, cosa c'è? Antonio sono. Non va bene metterle in parallelo le resistenze. Ma mi senti? Aspetta, non parla. Ah, ecco, e dunque alla fine, secondo te, giustamente chiedendo si impara, perché direi non dovrebbero scaldare così tanto sino a... E poi adesso c'è il dito sopra che ti ustiona completamente il dito, non deve scaldare così tanto la resistenza. No, devi cercare lo stesso valore di resistenza che resiste a un vantaggio superiore. Troia, tu mi stai parlando in greco. Se sento, ti ricordi i colori che ti ho detto, io faccio le mani, ripeto questa carta e... allora, fammi vedere che c'è poca luce. Arancio, grigio, nero, oro. E cosa dovrei prendere io alla fine? Uguale, identica specificata, più grossa di dimensioni. Più grossa è fisicamente più di dimensioni più larga. Se quella che c'hai è larga 1 millimetro, devi prendere quella che è di dimensioni è larga 2,5 millimetri. E quelle, il valore è identico, i colori sono identici, cambia proprio la dimensione fisica della resistenza che rende un vantaggio superiore, quindi una resistenza maggiore al passaggio di corrente. E dunque evitare che si surriscaldi così tanto, perché diciamo la prima che montava è surriscaldata, capito? Tutto lì. Quindi lasciamo perdere i compiti. bene, avanti gli altri, dai, che già ce l'hanno abbastanza. K, mi sentite, sì? Io ti sento, tu cosa c'è? K, se lo ricordi quello dorato del Taggi? Quello là stavo utilizzando. E qua mi va bene, non lo so perché gli altri ti hanno il radio. Chiaramente vabbè, Giulio è molto più vicino, quindi ti può sentire male, però io ti ascolto bene qua se non c'è problema. Te l'ho già detto il segnale, passi da 9 a 9 e 20, radio 5 è perfetto. Ok. Vabbè, rimango in Quelix, allora, ciao Sandro Larghero. Proseguite, mi sto ascoltando, vai. Proseguite. Non c'è problema, sto seguendo il vostro questione. Caffè sono staccato, va bene. Sì, sì, va benissimo. Giulio, aiuto, a te toccami. Scusa, che sto mangiando, va Giulio. E cosa stai mangiando? Panettone. Con i canditi, non senta. Sì, con tutto. Allora, appetito. Avanti, Alghero, è tutta tua. Peccato, mi sono perso un attimo, dimmi. Se tocca a te, vai avanti, no? Ah, ok. Aspetta che ci abbiamo il giovanotto qua che mugugna. Sì, capo. Ciao Claudio, ben sentito, buonasera anche a te. Rimani in Quelix, ci tenevo a entrare un attimo prima che magari andavi a mettere una resistenza in parallelo e poi ti si bruciava quello che c'era dopo perché ci passava una tensione più alta. Quelix, a parte mia, ciao. Ghiacciato, proseguimento. Avanti, Bombolo. Capo, non lo sentono l'amico di Alghero. Arriva là. Un segnale forte ma abbastanza comprensibile. Santiago se è una radio di 3,5-4, però abbastanza comprensibile. Vabbè, o bene o male, il mio amico è già abbastanza vicino qua Alghero. Pa, a me stai dicendo a quello di Alghero. No, a quello di Alghero, tu sei Santiago 7 Radio 5, invece con un'attaccata, diciamo, con la spinta in più facevi 9 più 10, però la radio ma ti sentivo un pochettino più sato, ti sento meglio così sinceramente. Beh, la prima era meglio però. Ah beh, io ho potuto dirmi che andava. Sì, no, vabbè, aumenta più il segnale e non di poco la verità. Però non lo so, beh, ti sento meglio così. Ma già lo so, così e così, ecco, eccola. Vabbè dai, facciamo i bravi. Yeah, dai, aiuto, prendo un bel discorso, Bombolo. Signori, buonasera dalla città di ferro. Buonasera, dottore, ben sentito e auguroni. Ciao Antonello. Contraccambio il tutto. Eventuali ascoltori in frequenza. Chi c'è in ruota, Antone? Claudio in correnti, Giulio Antone sta mangiando il panettone e poi c'è Bombolo direttamente. Comunque c'è un segnale pauroso oggi, complimenti. Segnale pauroso. All'anima, sempre lo stesso, Antone. Non è cambiato niente, sempre stare uguale. Ok, Bombolo, ci sei Bombolo? Ci sono, mi senti? Fisso Bombolo, caro. Oh, a te bisogna farti qualcosa, adesso bisogna prendere una scala aerea a noleggio. Ah, noleggio e metterti un bel traliccio a te. Comunque ciao, ben ascoltato, ma ti ascolto il sottofondo, Scappa. Dai, miglioro, dai. Mi faccio ascoltare adesso la Porto Torres. Dammi 2 minuti. Sì, capa, e considera che non so QRM, Bombolo. Non ho QRM e quindi riesco, diciamo, a tirarti un po' fuori. Fai qualcosa, mettiti qualche traliccio, qualche antenna un po' da farvi sentire. Va bene. C'era Giulio, dice che stava mangiando il panettone. Lì facciamo finire il panettone, dai. Riprendi Antonello. Ossilandia. Dimmi tutto. E quindi? Com'è? Sempre la solita pasta asciutta? Alla fine sì, sempre spaghetti col sugo, sempre quella, E la tua invece? La mia è sempre agli olio. Capito? La mia è sempre agli olio. Qualche volta rimetto qualche po' di prezzemolo in meno, o qualche spicchiolo d'aglio. Vabbè, sempre lei. Attenzione Sandro, mi ascolti, guarda a vedere i nocchi. Bobo, diciamo che è aumentato, cosa ti posso dire, un 5%, vai. Altro non posso fare. Ho capito, ma vabbè, se le tue condizioni al momento, diciamo, sono precarie, diciamo, sono quelle che sono, logicamente, più avanti, piano piano, vai, più avanti cercherai di migliorare. Certo, ma già così è un ultimo risultato. Ma diciamo che ti sei sollevato di segnale, la modulazione diciamo lo stesso, in proporzione diciamo ti sei più sollevato di segnale che di radio. Quindi penso che lì dovrai fare un qualcosa sulla modulazione, sulla radio. Io adesso non so che cosa stai usando con la modulazione. Guardate questo, meglio non adesso. No, è sempre lo stesso, proprio. Allora, il primo passaggio inizialmente era in Santiago 3, una radio di 2. Adesso sei salito a Santiago di 5 con leggeri picchi positivi, la radio ha leggermente aumentato, però siamo lì. Ecco qua, guarda a vedere se è aumentato adesso. No. Da parte mia, idem con patate. Vabbè, è questo quello che posso fare al massimo, dai. Come sono Ossi? Ossi è migliorato tantissimo. Le mani appena, ma proprio leggermente compresse, dicendo, ma proprio pochissimissima, molto più comprensibile e molto più forte, va molto meglio più di prima, la verità. Però, almeno un po' c'è la particolarità, se vai in FM sono sicuro che c'è una bellissima modulazione come la volta scorsa, adesso ho attaccato questa, già va bene, dai. Correggimi se mi sbaglio, ma c'hai sempre il classico antenino sul davanzale? Non è sul davanzale, è attaccata la magnetica sulla porta sinistra. Quindi figurati, è già tanto che stai andando bene, diciamo, con una magnetica, quindi che cosa puoi pretendere? Dico che questa antenna esce bene, la verità. Ho capito. Cos'è la classica stilo in acciaio? Cata, è una turbina Sirio. Ho capito. Già va bene, dai. Ok. Ti prendi Ossilandia? Niente, mi hai fatto venire fame, parlando di spaghetti col sugo e aglio e olio, con un po' di prezzemolo in più, ti sei dimenticato il peperoncino, mi hai fatto venire fame, sinceramente. Ma scusami Antonio, adesso non voglio entrare diciamo in merito diciamo alle tue mangerie diciamo di questi ultimi giorni, ma non penso che sei rimasto senza mangiare in questi due giorni. Ma la verità no, ne ho mangiato leggero, niente carne, la verità, ne ho fatto una bella, come si dice, i gnocchietti con alla sarda e le manzancone senza testa, giustamente. Lì poi ho preso la ricetta che mi ha dato, come si chiama, Doppio Room, ho fatto riposare il tutto con olio, aglio, prezzemolo, poi peperoncino il giorno prima e poi direttamente in padella, già erano abbastanza speziosi, dai, niente carne, né porcetto né agnello quest'anno, dai, ci siamo messi leggeri, dai, alla fine. Ho capito, vabbè, comunque si è mangiato lo stesso, anche se non c'era il porcetto e l'agnello, diciamo che hai mangiato lo stesso, diciamo, hai passato, diciamo, le feste in un altare ugualmente. Non è detto che ci debba essere per forza l'agnello maialetto, diciamo. Ormai, Antonio, ormai il Natale è tutti i giorni, mio figlio, è tutti i giorni, il maialetto ce l'abbiamo quando lo vogliamo, l'agnello idem, quindi è tutti i giorni Natale. Sì, quello pienamente d'accordo, per carità. No, per questo stranamente non riesco a digerire bene la carne, stranamente, comunque. Ai tempi che vengono, più giovanotto, sì, già ci passava di tutto, invece adesso, sono difficoltà di girare la carne, poi per il resto tranquillo, non c'è nessun problema. Poi, come dici tu giustamente, tutti i giorni è Natale, l'importante è che non manchi l'indispensabile, poi per il resto ci si accontenta, non c'è nessun problema. C'è anche Giulio Donna che sta mangiando il panettone, mio mi sembra ha mangiato due, vediamo se c'è ancora, sta digerendo. Sì, sto digerendo, sì. Sì, ho finito, ma sono sceso anche giù, poi sono salito, eccetera, eccetera. Vabbè, ciao Alessà, salutoni. Ciao Giulio, buonasera, ben ascoltato. Sì, sì, e magari Giulio è sceso giù per mandarci giù qualcosa di liquido col panettone, perché solo col panettone magari rimane un pochettino pesantino, quindi evidentemente Giulio è sceso per mandarci di giù, ha preso il panettone un po' di liquido. Confermo adesso, un ginger, un bel tassone di ginger, e ci è sceso bene, si mi fa è sceso. Va bene, l'importante è che ci sia la salute e poi per il resto viene da sé, come ripeto, Natale tutti i giorni, non c'è bisogno di affogarsi o di strafare proprio i giorni di festa. Va bene. Vabbè, anch'io sono dello stesso parere. Vabbè, io ho mangiato il porcetto, ho mangiato anche oggi, sono tre giorni che sto mangiando il porcetto, ma sinceramente non sono più mangione come una volta, adesso mangio in maniera molto ma molto normale. Prima mangiavo per quattro, non per tre, o per due, per quattro mangiavo, adesso non più. E vabbè, l'età, e poi non voglio nemmeno forzare troppo lo stomaco, è meglio mantenersi un po' in linea. Non dimmi che sei grassottello, ma vedi a te bene, a voglia. No, non sono grasso, assolutamente, non sono mai stato grasso, però se continuo ad andare, sai, con l'età adesso e con il riposo più o meno affostato, nel senso che non lavoro più assolutamente come prima, non faccio più le ore di prima, insomma, fatico di meno, eccetera, eccetera, allora potrei anche ingrassare, ma se mi sono regolare non è un problema. Ma con questo non voglio dire che mi alzo la tavola affamato e nella maniera più assoluta, sono abbastanza sazio quando mi alzo la tavola, ma prima mangiavo molto, molto di più. E dentro è. E niente. Smalto, ma che microfono stai usando? L'M85 con l'Airbags. Ah, ho capito, perché sempre una munizione che occupa del solito. La munizione tua è sempre stata abbastanza chiara. Boh, vabbè, forse prima avevi DMV, mi sembra, no? Questo è il diverso microfono, evidentemente. Sì, già vuol dire non lo uso di ammirla. Vabbè, ma ti sentivo più chiaro prima. Questo ti sento fortissimo in radio, questo sì, però con una relazione un po' più facciola, ecco, capito, più potente, nel senso più grossa, ecco. Capo, l'ho abbassato un pochino, dai. No, ma ti capisco, quello non è che non fraintende, ti capisco bene, se per quello. Ma voi la tua radio non era quella che io su internet ho sentito altre volte. Cioè, l'altra era più chiara, ecco, a parte il discorso potenza, lascia per la potenza, la chiarezza, sto parlando della chiarezza. Giù, ma un po' così, posso bere la mia diciamo che per le condizioni, diciamo che si trova, almeno da parte mia, vista la distanza e così via, diciamo che sta andando fin troppo bene, magari voi che siete, diciamo un po' più vicini lo ascolterete un po' meglio, capito? Un po' meglio, va bene, caro Antonello, devi sapere che arrivato a una certa età, poi dice la prima anta sarebbe diciamo i primi 40 anni, poi c'è la seconda anta che sarebbero i 50 anni, diciamo che la persona incomincia a essere un po' più, a parte di essere più matura, incomincia diciamo a rilassarsi un attimino, quindi bisogna rilassarsi anche diciamo nel mangiare, capito? Nel mangiare, poi esce la pancia, esce l'affaticamento, vengono fuori le conseguenze, quindi è meglio tenersi sempre un po' in linea, capito? E più che altro molto movimento. Beh, alla fine questi sono diciamo, i segreti per, diciamo, per andare avanti finché si arriva, a me rimane tranquillo, sì, ma molti dicono che se si evita di mangiare carne, diciamo, dai ancora meglio, frutta e verdura e legumi, diciamo essere più vegetariani, evitare carne e derivati, dice diciamo che ti allunga di più la vita, eppure perché il mio nonno, che è una vita che mangia carne, è guai se non li manca ogni giorno, è arrivata a 87 anni, e ancora continua a mangiare, più ce n'è più ne mangia, per dire, beh, capisci, no? Sì, va bene, ma allora c'è da considerare anche diciamo questione diciamo di costituzione, c'è molti che la carne, se manca la carne diciamo non riescono a mangiare, come molti per dire se gli mancano la pasta a pranzo e a cena non riescono diciamo a portare avanti il pasto e così via, però delle volte vuol dire anche la costituzione, io conosco persone che sono dei grandi mangioni, diciamo, delle buone forchette, che sono sempre snelli, diciamo, sono belli in linea, diciamo, e così via. Addirittura bevono molta birra, che la birra tende a gonfiare, però dipende sempre, diciamo, dalla questione di costituzione. E, però, oddio, la carne è sempre consigliata, diciamo, ai ferri, perché diciamo per perdere tutti i grassi e così via, c'è chi la carne gli piace col filo di grasso, tante cose ci sono. Sì, sono pienamente d'accordo, come ho detto già altre volte, mentre un giorno seguivo a Re3 Gioengheo, c'era questo popolo che arrivava dai 120 ai 125 anni, ed era una cosa rarissima che mangiavano carne, mangiavano frutta e verdure e legumi, e giustamente il periodo invernale, una zona fredda, non si poteva coltivare, e dunque si conservavano i semi del grano, del riso, dei ceci, delle fave, quello che c'erano, tutti i semi possibili e immaginabili, li mettevano in umido, li facevano germogliare e loro si alimentavano con i germogli. Alla fine erano vegetariani, 120-125 anni di vita, e carne diciamo più rara che niente alla fine, solo frutta e verdura, alla fine mangiavano sempre vegetali, e duravano e davano quella lì, cioè dalle 120 a 125 anni, sicuramente un motivo ci sarà alla fine, no? Perché se ci è messo un pochettino poi c'è poco da sbagliare, la carne è sempre diciamo è un animale morto, appena muore l'animale diciamo la carne comincia a dare già a decomporsi dal momento in cui l'animale non è più in vita, e stai mangiando giustamente la carne decomposta anche dopo un'ora dalla morte, alla fine sicuramente anche quello provoca diciamo delle conseguenze con l'andare degli anni mangiando carne. Sì, ma Antonio devi considerare questo, adesso diciamo questa, adesso non so di dove possono essere diciamo questa gente diciamo che si è nutrita soltanto esclusivamente di questi germogli, ma non è che vuol dire che i germogli, mangiare soltanto una vita germogli e arrivare a un'età diciamo di 120 o 130 anni. E guarda che il tenore di vita nostro non è che comporta soltanto nel mangiare, comporta anche diciamo nel modo della vita che noi portiamo avanti. Uno magari potrebbe essere stressato, uno potrebbe essere caricato che si carica magari di problemi, a parte la cattiva alimentazione, abusi diciamo di bevande, di alcolici e compagnia bella. Quindi diciamo che fa parte diciamo anche tutto ciò diciamo nel nostro tenore di vita. Oggi come oggi la carne, ma non solo la carne, tutti i generi alimentari in genere non sono più i generi alimentari diciamo di una volta. Oggi sia la carne che i generi alimentari sono pompati, io li chiamo pompati, perché la maggior parte diciamo delle verdure o così via sono autoalimentate diciamo a forza di concimi, come la carne diciamo il bestiame portato all'ingrasso con dei mangimi e così via, quindi diciamo non è una nutrizione naturale. Quando noi per dire ci mangiamo una fettina, ci stiamo mangiando una fettina gonfiata. Finalmente d'accordo, alla fine quello di sano lo può trovare solamente dai imparatori o da qualcuno che coltiva la propria terra senza mettergli niente, allora sì, che stai iniziando già a mangiare qualcosa di decente, chiaramente d'accordo. E poi mi dici tutto lo stress, il tenore di vita che stiamo conducendo ogni giorno, preoccupazioni e compagnia bella, che vuole fa tutto brodo e coincide giustamente nella nostra vita, quello senza un dare dubbio. Adesso bisogna vedere Giulio che stava mangiando il pandoro, c'era un pandoro fatto bene. Dico buono anche, oltretutto. Dunque, no, ma io dico questo, secondo me intanto devo dire subito che il fisico umano è una macchina perfetta. Tutto quello che il fisico accetta vuol dire che va bene. Naturalmente se uno poi ha la poca intelligenza di fare tutte le cose è chiaro che non va bene assolutamente. Perché se noi dovessimo ascoltare tutti i medici, dicono che bisogna mangiare tutto, tutto indistintamente, senza mai abusare, naturalmente, delle cose che si mangiano. Perché uno non può mangiare solamente verdure, legumi, eccetera, perché ci vogliono anche le proteine, ci vogliono. Anche le proteine comunque fanno male se mangiate in grossissima quantità. Io sono abituato in bottega a scendere alla radio tutti i santissimi giorni. Tutti i giorni alla radio a mezzogiorno, alle 20 su Rai 1 c'è una trasmissione che si chiama aspetta com'è, vivere bene, una cosa del genere, dai. Comunque parlano i professori addirittura. I grandi professori della medicina parlano e consigliano le persone che hanno problemi di qualsiasi patologia. Proprio in questa settimana appena passata stavano parlando dei reni, delle malattie renali, stavano parlando. E questo professore ha detto che mangiare, ad esempio, carne rossa più di una volta alla settimana è dannoso per i reni. Poi un altro ascoltatore ha chiesto, come mai dice io bevo molto poco e vado molto poco anche in bagno urinale? Gli ha chiesto, beh, uno beve quando ne ha voglia, è inutile andare a portare, ecco, a differenza di altri dottori che dicono che devi bere due litri di acqua al giorno o anche di più. Boh, io non riesco a concepire. Ecco per quale motivo dico, siccome il fisico umano è una macchina perfetta, lo stesso fisico delle persone richiede quello che richiede e uno assume quello che il fisico appunto le permette di assumere. Tutto lì, capito anche me? Sì, beh, chiaramente d'accordo, alla fine sì, come stava dicendo Paolo Torres, poco. poco, ma di tutto, senza strappare la fine. Dovrebbe essere pulisce per di più, movimenti ogni giorno, camminate lunghe, sport se possibile, tenersi diciamo sempre in movimento, non arrugginirsi, ecco, prima dell'ora. Di cosa te voglio rispondere io? Rispondi, io sono in ascolto, no? Papà, io dico solo una cosa, una persona di casa che beveva così poco, mi ha pagato le spese, dico solo quello. Ah tu, io non l'ho detto io, così io non lo intendo, io faccio fraglianno, io faccio musico, io ti sto riportando quello che ho sentito alla radio da questo grandissimo professore, perlomeno così l'ha presentato il giornalista, e tutti i giorni, tutti i santissimi giorni, tu accendi la radio, a mezzogiorno meno 20, sì, a mezzogiorno c'è un professore che parla delle varie patologie, delle varie malattie, perché poi ci sono i radioascoltatori che telefonano, vogliono il consiglio in merito. Questo ha telefonato dicendo che lui era una persona che beveva pochissimo e quello mi ha risposto: tu bevi esattamente quanto ti richiede il tuo organismo e inizia ad andare a forzarlo bevendo di più, perché non ha senso, capito? Perché l'organismo umano è una macchina perfetta e sa come si deve comportare. Poi il fatto che una tua persona abbia avuto dei problemi discorso, con quello non voglio niente, capito? Però io ti sto riportando quello, poi te l'ho sentito alla radio, tutto lì. Certo, io ti volevo dire solo quello, no? Io sono così, lui dice pure che avevo detto, era perché beveva troppo poco, e quindi gli ha già provocato questa cosa. Un giorno sì, un giorno no, a fare la dialisi. Quello poteva essere un altro problema, causato da un altro problema, tu non hai detto perché uno beveva poco che aveva appunto un problema, chi lo sa, boh, bisogna vedere come stanno le cose, non è che uno può affermare ha bevuto poco e si è ammalato di rene, no, non si può dire, perché uno può dire anche ho bevuto anche troppo e mi sono ammalato lo stesso, per dire, no, e quanti ce ne sono? Di solito i dottori consigliano 2 litri d'acqua al giorno. Questo io ci ha detto chiaro e tondo, dice, ogni organismo deve bere quello che sente il bene, boh, basta, senza mettere una misura specifica di quanta acqua uno deve bere in un'intera giornata, capito? D'estate si consiglia di bere 2 litri al giorno, eppure di più. Cosa vuoi che ti dica tu? Perché io sono bacio lascia, non sono un medico, perciò poi magari sei un altro medico che ti consiglia di bere 2 litri al giorno, trovo un altro ancora che ti consiglia magari di bere 3 litri, che ne so io, fatto sta, io la penso in questo modo, ci sono persone nella vita che acqua non bevono mai, bevono solo altre cose, vino, birra, queste cose qua, eppure campano all'infinito praticamente, capito? Ma non è che quelli lì però quando vengono al dunque schiattano tutta un'ora, lo sai. Altro Simone, anche da ragazzini piccolini, anche quando uno sta ancora allattando, può morire, perciò per morire ci vuole una scusa, una piccola cosa di uno Simone, poi cosa vuol dire? E detto, è chiaro che a un certo punto, quando tu hai 80-90 anni, per dire, è chiaro che a un certo punto ci devi aspettare un giorno all'altro, è già una fortuna se uno si sveglia tutte le mattine, non è questione di schiattare, schiattare puoi schiattare anche quando hai 3-4 anni, 5 anni, o 20 anni, o 70 anni, cosa c'entra? Vabbè, ma quelli che bevono così, che fanno tradizi, un colpo, cioè, quelli rimasti, cioè prima o poi gli succede, perché lo sappiamo tutti, chi beve la cirrosi è sempre dentro l'angolo. Sì, ma quello è un altro problema ancora, ma tu, io ci sono persone che non hanno mai bevuto, di fronte alla mia fraglieria c'era una donna che era la madre di quella che aveva dovuto si era orientata accanto a me, lì, non è in bottega, e le moto dice giusto, questa è una donna che non solo di essere una bevitrice di alcol, ma non è mai bevuto addirittura, né vino né niente, poi si è ammalata lo stesso di cirrosi ed è morta, ma aveva già roba di 85 anni altrove, e i casi della vita sono tanti e molto strani alle volte. Vabbè, facciamo girare, dai, avanti anche lei. Io no, mi stavo ascoltando, io sinceramente esperienze così non ne ho mai avuto. Sì, ho conosciuto gente che beveva una volta perché beveva, altri invece hanno campato sino a 90 anni bevendo, sempre una lacera, un fumo, senza mai una malattia, sono morti di vecchiaia, sino alla fine bevevano e alla fine è sempre questione di costituzione o di fortuna, mettila come vuoi. Ovviamente, ma è così lo stesso discorso vale per la sigaretta, c'è gente che ha fumato per 70 anni e è morta a 90 magari, no? C'è gente che invece ha fumato per 4-5 anni e se no... Ma cosa vuol dire? Nella vita ci vuole fortuna, è chiaro, questo è ovvio, ci mancherebbe altro. Io auguro a tutti indistintamente, anche al peggior nemico, che poi tra l'altro io nemici lo ho, di campare tantissimi anni, tanti, veramente, sempre in buonissima salute, figurati, ma purtroppo la vita crea anche queste sorprese qua. Facciamo girare per Alessandro, vai Alessandro. Va bene, ma è giusto come stava dicendo Giulio, diciamo che il nostro corpo diciamo è una macchina, più che altro diciamo è una macchina, però arrivato a un certo punto i conduttori di questa macchina dovremmo essere anche noi, perché noi nel nostro corpo diciamo noi abbiamo delle immunità, diciamo, abbiamo dei soldati che combattono determinati, diciamo, determinate infezioni, determinati valori e quanto c'è, diciamo. Logicamente i medici si basano, diciamo, sulle loro esperienze, sulle patologie, diciamo, avvenute. Però arrivato a un certo punto, diciamo, i medici siamo noi stessi che dobbiamo farci da medici, perché diciamo se io bevo alcol per dire per una settimana, vedo che bere alcol mi sento male, mi porta a capogiri, mal di testa, allora l'alcol devo cercare di eliminarlo. Non è che devo andare dal medico e gli devo dire dottor mi dia qualcosa perché ho capogiri e ho mal di testa. Il medico ti darà una pastiglia, ti darà qualcosa, però il medico in se stesso o sei te arrivato a un certo punto. Quindi giusto come diceva Giulio, ci sono personaggi che hanno fumato una vita, hanno fumato anche due pacchetti di sigaretti e sono arrivati al punto di 80, 90, 100 anni e poi sono venuti a mancare. Ma quello fa parte, diciamo, da tutto il nostro corpo, dalla nostra immunità, come c'è il classico ragazzino per un'influenza, per delle patologie particolari e tutto quanto, che l'immunità non è riuscita, diciamo, a far fronte, diciamo, di questa patologia particolare, i medici logicamente usano i mezzi e i medici, diciamo, da loro conosciuti all'avanguardia, però dopo accettarli e mandarli avanti al nostro corpo. O sbaglio, Giulio? Ma indubbiamente così, perché il nostro corpo è che sente come si deve comportare nella propria vita, è chiaro, uno, se ripeto, se mangia troppo dicono che fa male, poi ci sono dei mangioni, hanno poco, dice che non si è ben nutrito e fa male, ma insomma come ci si deve comportare? Se mangi carne, troppa carne, fa male, se non mangi poca, dice che mangia troppo poca, deve mangiare più pesce, deve mangiare più verdure e così via. Ripeto, uno giornalmente deve mangiare quello che si sente di mangiare. Se uno ha la carne, o meglio se ha desiderio della carne, mangia la carne, se ha desiderio di mangiare di bulli, mangia di bulli. È inutile di andare e ascoltare certi consigli che danno i medici, perché io ad esempio il mio precedente medico, non questo che ho adesso, di casa, di famiglia, è lui consigliava sempre non bene, a me lui diceva bene, cazzo io non mando tutta vita mia, come mi sa dire, non va bene. E lui invece addirittura si faceva gli spuntini su mia camera, cazzo, ma insomma, che discorso è anche questo? Lui consigliava alla gente di non bene, non si invece lui da quello il primo trasgressore di se stesso. Non è possibile, ragazzi. Si chiama a questo punto, stai zitto, lascia vivere la gente come vuole vivere, basta, non se ne parla più, cerca di curarla quando è la necessità, non bisogna dei muri, e basta, ma se tu vai a dire a una persona non bene, o non fumare, e lui fuma e beve in quantità industriale, non è possibile, ragazzi. E lui tanto è la sua. Sì, alla fine è così, no? E l'unico modo è essere medici. Noi sapendo poi alla fine per non male sai qual è la cosa che ti fa bene e che ti fa male, come ha detto Bordo Torres, se quando bevi dopo 2-3 giorni ti senti male, vuol dire che l'alcol è esagerato e dunque devi evitarne, alla fine sì. Devi essere tu a limitarti poco ma un po' di tutto, il segreto è quello, è lo da fare, l'unico segreto è quello. Avanti una portanza fortissima, chi è? Avanti? Avanti una portante? È abbastanza potente, poi arriva a fondo scala. Ma che qua a fondo scala? Avanti una portante? Perché cerchiamo con i chiedimi, non ti scacciamo, stai tranquillo, avanti una portante. Lascia perdere, va. Ti faccio un attimo di bianco, arrivo dopo. Non è un problema. E così è, tu. Ricordati una cosa, tu. Quando tu non hai voglia, ricordi mangiare, mangia. Poi, mangia quello che ti fa comodo, quello che ti piace di più, quello che desideri in quel momento. Dovessimo pensare alle persone che stanno morendo di fame, eh? E noi dovessimo per dire rinunciare a certe cose, se c'è una certa mangiate, non è possibile, è assoluto, ma con tutto che noi invece possiamo attendere al verbo e mangiare, noi ci abbiamo avuto il mio panno di quelli che non ce l'hanno, quelli sì che stanno veramente male, capita, non chi mangia come mangiamo noi, no. Ripeto, mangiare senza mai approfittarne troppo, questo ne sono convinto anch'io. Però se poi uno vuole farsi una mangiata più abbondante, che sono io che ha più tempo a casa eccetera eccetera, ma non mangiare basta, vuol dire che non si sente mangiare, non deve stare lì a rompere l'anima perché dice che non mangi poco, ma dai, lascia perdere. A mangiare sa. Attento Giulio. Marchisio, vabbè, ciao Marchisio, avanti. Okay. Buonasera a tutti, belli e brutti. Mezz'ora che sono in cerca di fare un buco. Ecco chi era questo segnalone. Ma chi? Io ti ho chiamato 3 o 4 volte, vai avanti, era portante, ma non rispondevi, non avevo la radio, che ne so io. Non c'era radio, ma usciva solo l'importante, capito? Quel microfono non era avvitato tutto e dunque non faceva contatto. Ed ero quasi brutto. E ma chi? Come è stato il Natale? Spero bene. Tutto bene giù. Così anche agli altri poveri ha avuto passato. Beh sì, no, ma sicuramente diciamo che in linea di massima tutti quelli che vivono penso che l'abbiamo passato bene, almeno ci siamo sentiti un po' così, prima uno poi l'altro eccetera eccetera. Nessuno si è lamentato, dunque vuol dire che le cose sono andate bene per tutti. Chi si deve lamentare sono quelli del Biafra o ma chi, non lui. Bene, dai, sono entrato solo a fare un salutino. E boh, adesso me ne passo a vedere quelli. Giulio, ma quando è che ti trovo giù in laboratorio? Domani, Bacchì, domani. Domani, cosa fai a proposito? Tutto a posto, è arrivato? È arrivato, trovo a far vedere infatti. Ok, Bacchì, domani sono in bottega, no, domani si lavora, è giornata di lavoro, dunque non è un problema, Se ricomincia, di nuovo l'attacco. Dai, intanto vedi con lui un po', c'è Alessandro da Porto Torres, c'è anche Antonello da Ussi, è Antonio di 18 e attualmente con la zona, penso, io non sono così, tu comunque so che più o meno siete vicini, credo. Avanti ancora, ma chi fai girare tu, dai. No, stacca, stacca, ma chi sei stato, se lo stacca. Adesso dovrò andare bene. Benissimo, adesso vai. Avanti alle sacche, il bacchissimo, la Sassari. Ehi, capo. Allora, scusate un attimino, saluto Bacchisio, però mi dovete scusare un attimino che c'ho un piccolo inconveniente qua che lo devo controllare, dai. Continuate pure voi un attimino. Ok, d'accordo, Alessà, d'accordo. E va bene, dai, avanti il bombolo. Bombolo. Capo, noi con Bacchisio siamo proprio di fronte, siamo, ti puoi immaginare quanto siamo vicine. Vediamo se è diventato Antonello. Antonello, sei diventato? Antonello è andato a mangiare anche il panettone, il bacchino, avanti, che prendi? Tutti a panettone sono. Ehi, Antonio, già lo stavo solo io, caso, se lo conosco con un ciappo e lo conosco. Oh, ben saluto, ti saranno, tu. E stasera dentro quella cosa che lo stavi facendo, dentro quella K, insieme a Volta, cos'è di Murighetti? La cosa, con... ecco qui sei tu. Ma, intenda a me, con Leoncino ero e con Luca. Con Leoncino quello, Lui mi portò con la Iata, mi paria. Cos'è che ci avete da dire con me? Cosa ci avete da dire? C'era un leoncino, io gli ho detto, noi andiamo nel buco un leone, ma con la Iata era, che stavano i leoni. Ciao Bacchi, buonasera. Buonasera, cosa leoncino. Stasera abbiamo visto un beggiare dentro la macchina. Stavamo mettendo a provare un'antenna, ci andava bene, ho visto che stava andando bene, già va bene. Buonasera a tutti comunque. Ciao Giuseppe, beh, tutto bene, sì? Gappa, tutto bene Giulio, tutto bene. Abbiamo passato bene il Natale, tranquilli, a casa, e ci siamo divertiti e tutto quanto. Bene così, sono contento per te. Va bene così. Aspetta che faccio chiamata a Claudio, se ancora ascolto. Claudio! Claudio non ha più gana stasera di Valdao. È di Nintendo Mandroni, è di Nintendo, non vuole parlare a Baracchino stasera. Non è possibile, non è possibile proprio. Va bene, dai, non prendo Bacchi. Cosa vuoi già non fare il tone, Claudio? Ho capito, non sto parlando al baracchino, sto mangiando il panettone, pandoro e un piccolo sfumatino. Non ho fatto vedere la gana pure a me. Ma non ti di più una festa, non mi dai, ma il panettone in casa. Allora fagli una festa a me, a io, allora darò un braccio. Allora, un po' più caldo canale, più 200 metri, quanto saranno? Sono 200 metri, se sei forte dei braccia lo lanci, ci arriva giusto giusto arriva. Capa, di che dobbiamo, di che dobbiamo, a me piace il panettone classico, il pandoro non mi piace. Capa, ero niente, a Napoli, ma tagliando ma niente, corrente. Perché quando sono a casa sono allucinante, quando, cioè, quando le cose non le cerco nemmeno. Mi sai giù, allucinante era un panettone che fa Antonello, Antonio. È allucinante. Prima si lo mangia, dopo è allucinante. Anche prima se la mangiando l'ha abbagliato, capito? Prima l'ha guardato, se l'ha abbagliato e allora è diventato allucinante un panettone. Avanti Giuseppe. Cappa, ha detto un panettone, un pandoro rimane male sullo stomaco, da voi quasi bruciò il stomaco, da voi vi lamentate, quelli vi lamentate che ci avete bruciato il stomaco e fa male la pancia. Lo mangiano di un magnetù e non ne ho panettone. E cappa, avanti Giulio. Ok, non ci. Vediamo se, entro se mangia un panettone, chi fa il panettone, là, sappiamo tu, come si chiama? Vabbè, il bandone, se la voglia che vuole il bandone, la chiedo. Figurati un poco, ohia. Non lo so io. Se la figlia che la voglia non mangia il bandone, mangia solo il panettone, io lo so io. Tu lo sai a chi? A me mi pare che gli scivera un bandone dai tuoi panettone. Dai, anzi, da tu. C'è mai niente di bandolo, c'è mai niente. Beh, se vuoi venire, mi metti il panderone, lo porto, lo faccio vedere. Tanto che a me il bandolo non piace molto. Proprio una fetta così, ma veramente, a me piace il panettone, quello classico. Forse sono l'unica persona a fare, ma cioè, proprio il mio bandolo non mi va. Non mi piace il panettone, quello buono, brutto. Dai che lo fai a fiato per gli buruchisso, io se vedi, se vedi ti do quella metà di corso di bandono. Oh, non mi piace. Solo col coso farcito con la cioccolata. Te ce l'ho anche quale, ma non è meglio là, un panettone classico sì, Tu, giù, dove andrà dito, dove andrà? E tu, mettici le ruote oppure metti lo suo furgoncino a vedere che anda. Ma non è chiesa, come c'è la tua verità, ma chi? Ha detto che quando non pensa a lei, uscì a andare a lei, non sogna tanto. E allora non sogna tanto, e dice come sta, non è più loro. Non lo dici? Ma ne avete fatto venire la voglia, cazzo? Adesso sono andato in cucina e mi sono preso il panettone. Almeno ha cominciato pure lì. Ma hai cominciato anche tu con questo fatto del panettone. Perché mi ha mandato il gruppo, dice Giudì. E se sei, vai di piano, se non mi tocca fare il giorno, mi mandano una salve al caio buio. Vai, ma chi? Non so niente. Ma niente. Allora poi hai grassetti, allora poi diventi di buchi e poi di manco camminare. Grassetti e fanno un bandone, un panettone. La faccio piano io, mi ringrazio, con una bellata. Sono stato via la stessa ora. È la mia di subito. E pigliate un pezzo di panettone, Giulio. Vai Giulio, vai pigliate un pezzo di panettone che ci tiene compagnia. No, vado tocca fare un piano di cane, un piano di cane su due. E invece è meglio cucinare la panettone, poi me lo mangio. Poi vado a vedere se sono 6:30, qua 1:30 che si mangia. Dunque, è meglio tagliare l'appetito. Passerai dopo, se ci sa, se ci manca un angolino nello stomaco, non so perché ce la mangiamo, se no pazienza. Allora, a te credi che vuoi anche mangiare un giambe e panterra? Sì, te hai mangiato, non ti ha già compreso. La terra di panettone si ha bagnato, e noi fai la bicicletta. Ah, ma mezzo panettone mi ha mangiato, fa ridendo, fa ridendo. Mai di solito, Dicevo, quando no, mangiando sopra a casa, è un terribile. Ma si intende che sei terribile, sei un maglione, non mi intendi, si intende. No, non c'è una idea, non ci occupa da qua. Quindi, fammi da un baracchino a Mario. A posto siamo. Attenzione, sto mangiando il microfono di tutti, non so che sbagli. Non sbagliare, se no il microfono si faccia. Giuseppe, a come lo chiedi? Ragazzi, non ho fatto di nulla. Beh giù. Nell'attesa, cazzo, una chiacchiera all'altra, cazzo, deve riempire la bocca, oh Giulio, deve riempire la bocca, perché sennò la bocca asciutta, cazzo, non conviene mai rimanere. E dopo la bagna la bocca, dopo la bagna, dopo aver mangiato il panettone, magari si becca anche uno sfumantino. Certo sì, ma io invece non sono tagliato molto per bene, anzi, non mi danno il butto. E in questi 3 giorni non è che mi prendo giù di giro. preso il bicchiere di spumante, no? E lui dice Eva, acqua minerale, basta. No, mi tu appunto adesso, sei un negato per banco, no, non è possibile. C'era mio fratello, anche qua, con il mio fratello, qua, no? Loro un mese di cena che si hanno bevuto, ma io dico, nuda, non mi va l'alcol, non è mia piaciuta. Se ti ruba chi? Io, l'alcol lo fa bene. Fa piegare le gambe e fa dire le cose che non devi dire. Papà, se così ci conferma, è maturito una pulla di spumante e da voi la ampulla di vino ed è già alleluia. Pregiai giù, alleluia. Giuseppe, ma il Casinamburo era allucinato Antonio? No, già era tranquillo, o ma chi? Ah, lo so che è bevuto forte, è detto a Capodanno. Che aggiunge la curipipa nella macchina? Cazzo! Curipipa? Allora, ho sposato il labbrizzo, e tu hai incinato, e i murichetti in alto ausilino, e sai che tu vai giù i murichetti. E lui no, ma chi? Io ero quello che era in piedi, non ero io, ma chi? Antonio, se ti vengo bruciato, ti conoscono Mattesi. No, era Luca che era, io mi sono inchinato 2 minuti, ma ho messo subito veloce, era Luca che stava misurando le cose, le stazionarie, io ero in piedi. Io dico che eri tu, e dopo tu mi prendi su di piazza, quando sono passato io ero incinato. Forse ero inchinato in quel momento, ci stavo entrando il carro sotto, veloce, e poi sembra attaccato la colonnina, no? Ah no, io stavo aspettando qualcuno da dietro, no? Ah vai, non mi hanno comprato niente, è ammazzo il gioco, io ricordo me. Che presa hai, Giuseppe? Ho capito, Bacchi, ho capito. Allucinante. No, comunque faccio confermare quello che ha detto Antonio. Era 5 minuti per mettere un capo della colonnina, no? Che io ho la colonnina esterna. E dunque lo stavo mettendo sotto il tappetino, gli ho detto mettilo sotto il tappetino perché tanto poi non lo piatto quello. E come si è inchinato, invece che nel momento che si è inchinato, hai visto tu, hai capito. Nel momento che stavi passando l'hai visto inchinato. Io sono passato in quell'attimo, e tu dici, no, ma sei più dritto vero io, una cosa dritto, ormai a c'è dritto tu non vengo più, giù. Come? Ma è che se Giuseppe si chiede se come ti ci l'hanno, ma anche come ti chiede cosa si muove mamma qui? Ma dormi, sono un problema. Non so, Guglia, ma io non me ne posso fare, dice. Se ne faccio il camanato, a me non fa sempre. E te sai, Giuseppe, allora sai, dice, se ci trovi un marito, la vecchia di una camanata. Per carità. E allora, ma chi? Cosa mi racconti di bello? Penso che mi racconti. Tutto bello, Si lavora sempre. Si lavora, Capito? E ancora, nel lancio di travagliare, almeno altri 20 anni. Cazzo, è così tanto. Perché, minore, sì, ma chi? Che cosa che dici amici? Io se non sono vecchio come la penso, non mi dire l'Antonio che mi conosce. E quanto è nato? Allora c'è più mano di me però. Ma non lo so, io 46. E sono più piccolo di te, un anno più piccolo. E vabbè, chi mi seguo? Antonio del vostro padre Peri. Se me lo dico sì, non vi credo, no. Allora com'è ti alzo, come te lo devo dire? Mio nome avrai 66. Satana! Allora io non vi credo. I 66, io dico che ne ho 80. Andare. 46, 47 nel prossimo mese. Andare. Ah, 47, lui, ma che palla di... Dimmi il voto, io da più. E allora io sono quello più giovane di tutti, dai. Tu sei il più piccolo, essere più piccolo, quando vuoi la bombola è infilippante, c'è ancora più piccola che ti ficcia. Non mi ficci un signo. Tu stai scendo un po' la tua, che fai? Allora tu li dà la tua, l'uomo, gli ha subito io, non sarete, ma... Ora la boccia, le boccia, magari ci la prendeva pure quello dando la bombola a cutto. Allora tu, io non ho mai un lascia, io non lascio, non tocca in terra la colibita, le bomboli, dunque, dobbiamo puttare, tu mi bussa, non ho mai un lascia. Guarda, Eto, vedi che tu mi bussa per culo piuzza. Ma come le valore, bussa, pensa a fare. Vieni, allora, ma tu mi sa nuovo, vediamo come le valore. Allora, quando non sembra un gruppo giovane, no, più frequenza, non c'è neanche un ragazzo della mia età, qua. A me mi sembra sempre appassionato, io ho 27 anni, cioè, mi ha sempre appassionato la radio, il baracchino, la radio, tutto quanto, fin da piccolo. Tu sei più giovane rispetto alla frequenza, infatti non ce ne sono giovani dove ne più. Sono tutti paliti. Anche non comprende mai anche un capusoglio. Sono sempre loro, ossia, quando ti vedono quello maracchino pare che sia una cosa, chissà che cosa. Finiti sono i tempi del maracchino. Gli anni d'oro sono finiti. Peccato. Ma... a me già piace molto la frequenza, piace il maracchino, mi piace la radio, mi piace trasmettere, a me piace tutta questa cosa. Mi è sempre piaciuto sin da bambino perché il maracchino ce l'abbiamo sempre avuto a casa. Ma l'abbiamo sempre avuto, dunque già sei pratico della frequenza. Io ho voglia. No, io l'ho occupato l'anno scorso. Buffa, ma chi? Buffa! Ehi, non mi credi, Giulio, ti vedo tu! E mi sa di mai recuperato! Ah sì, tu non mi ho già regalato a me per andare! Ah, c'è un bambino dell'anno scorso! Ah, c'è l'anno scorso, Ehi, quanto giorno, 4 giorni, ma chi? All'incirca! Ehi, all'incirca, sarebbe una cosa del genere! Ma che sai, no, io da lui. Tu ci sei prima di me, Giulia, già me lo ricordo bene. No, poi io rispetto le regole, non faccio mai la volta a nessuno, no, non è il caso, non parlo mio, non sei valido, passa davanti, ci manca la braccia. Ma quando eravamo ragazzi, quando eravamo tutti e due atleti, ti ricordi, ma chi? Finiti sono i tempi. Io vorrei tornare 47 anni indietro. 47 anni indietro, caspita, sarebbe bello, infatti, dunque, 1962, nel 62, io ho iniziato nel 60, avevo iniziato nel 62, campione stato di marcia di 10.000 metri, sulla categoria juniores, e poi aveva fatto il conto da un mese passato, dal 60, caspita, non è possibile, sono così tanti anni sono passati, caspita, ma chi? Avrà 18 anni allora, ma non è 70 quasi. Sì, io in quel periodo, diciamo così, avevo vinto i campestri al coso, all'Acli, la Libertà Sacli, non sono Salvatore Pizza, a Cagliari, l'avevamo vinto quello lì. Poi sono andato sempre andando migliorando e alla fine dopo mi sono convertirato. Beh sì, beh certo, ma ci sono state delle riunioni che ho corso anche due volte lì, non mi ricordo, ma avevo fatto, ad esempio, la mattina avevo corso a Cagliari e avevo fatto la Cagliari Porto Cagliari, avevo fatto. Ho preso l'aereo, sono rientrato a Sassari e la sera ho fatto la coppa con l'Immacolato, quella del Monte, e poi altre, insomma, andavo fuori, andavo rientrando qui a Luce, e come lo dire io non facevo più giragia, senza giragia, guadagnavo più, gareggiando che lavorando, la te immagini? Guadagnavo, io il premio più grosso che ho preso è 10.000 lire. No, io già ne ho preso anche di più, anche, anche 25 se per quello, però le cifre erano quelle, ma 25.000 lire all'ora, tu pensi che allora io in Suberino nel 60 prendevo, mi sembra, se ricordo bene, intorno alle 15.000 lire a settimana, 15.500, una cosa così, 62.000 lire al mese, praticamente, mi stipendio in stabilimento. Vincere 25 in una gara, una domenica, c'era sacrificio, perché io facevo da casa a stabilimento a palestra a casa, sempre così, per anni e anni, io malenavo, insomma, ecco, per me era diventata una seconda professione, era diventata la tipica leggera. E avanti, Giuseppe. E capa, e io Bacchì, erano altri tempi Bacchì, quando ho iniziato io a modulare, allora io ero nel periodo, nel periodo che ho finito il militare, ero 86, e ho iniziato a modulare, che mi avevo messo un barattino di un 23 canali allora, avevo un 23 canali, stazione fissa, che eravamo in campagna, e dunque da lì con un'antenna Mantova 1 che avevo regalato, e da lì mi è uscita la passione, poi ho smesso e ho ripreso da poco. E no, io ce l'ho avuto sempre qua, è sempre qui a Montinaccio, poi per sempre non l'ho mai dato, capito? No, io ho iniziato quando c'erano i pirati, io ho fatto il pirata e poi dal pirata sono passato a omologato. Che capa, Bacchì, e un po' tutti l'abbiamo fatto i pirati, no, capito, no, non è quello il problema. Ora, se ricordiamo i vecchi tempi, a quest'ora, guarda, ce n'è da raccontare le cose di crude, cosa facevamo noi, e notate che non facevamo al baracchino, anche alle 6 di mattina facevamo, iniziavamo alle 10 e finivamo alle 6 di mattina. È registrato. Prima era diverso, prima era un'altra famiglia, adesso non fa più nulla. Ok, avanti break. Buonasera a tutti, auguroni rinnovati, doppio room, avanti. Ciao Gianni, buonasera, è cambiato il tutto. Bene, rimettiamo tutto per Giulio, vai. Okay, ciao Gianni, rinnovati gli auguri, non ci sono problemi. Insomma, io ieri per la seconda volta ho mancata la comunicazione telefonica, vabbè, non ho importanza, già l'avevamo già mezz'ora al telefono, comunque andava bene lo stesso, poi ho pensato di non richiamarti perché intanto ormai ci abbiamo detto tutto, dunque è inutile richiamarlo. Avanti Giuseppe, per Gianni. Yeah, buonasera Gianni, doppio RU, rinnovando gli auguri di buon Natale. Facciamo anche a te. E io ho fatto bene, perché tanto anche io non ho richiamato, perché tanto siamo restituiti a richiamare senza sprecare una chiamata. Dove, probabilmente c'era qualche problema nella linea, cadeva la linea così, strano. Bacchisi, per entrare.